Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Finalmente vi aspettavo, sono le 11.07. Abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Sbotti o mandi giù? Parliamo di rabbia. Se la conosci, la gestisci meglio. SOS, mi si è rotto un dente. In palestra con i tacchi a spillo. Questo passo 2 deve avere un movimento molto buttato, lasciato, ma sotto ci vuole molto controllo. E, purtroppo Susi sembra un po' un sacco di patate in questa cosa, perché... No, ma invece sì, di aiutare il ballerino... Si usa per far star male una persona. No, no. Comunque, un'adulta, no? No, è per far capire... Può anche spiegare meglio, invece di dire no, sacco di patate... No, è per far capire... Vabbè, ma sembra un sacco di patate perché non tiene, forma. Invece non di aiutare il ballerino lo ostacola. Si usa per ferire. Ma non c'hai consultato! Qui è logico che preferisco, che ne so, ad ogni occasione il giusto vestito, però... Tu lo dici perché tanto per dirlo, perché non ci credo. Anche lei signora lo dice tanto per dire. Questo era un bacio di saluto perché me ne vado. No, no, tu stai qui. No, no, me ne vado sul serio. Tu non ti muovi. Me ne vado sul serio. Senti, bella questa discesa. Ringrazio tanto, è stata una bellissima occasione questa per stare tutti insieme. Grazie a tutti, buonanotte. Insulti, urli, parolacce, minacce, a molti piace sentire o vedere personaggi noti e meno noti fare i conti con la rabbia. Noi preferiamo parlare della nostra, di quella che ci prende a volte all'improvviso o che tratteniamo con il nostro autocontrollo o con cui conviviamo. La rabbia, bene o male, la conosciamo tutti per esperienza diretta e indiretta, è uno dei 7 vizi capitali e anche una tra le emozioni più precoci. Pensiamo al bambino, si arrabbia anche lui. Anche quando è molto piccolo, quando la sua mamma non gli dà retta, lui piange per segnalare appunto la sua delusione, la sua rabbia. Allora iniziamo a dire che la rabbia, come tutte le emozioni, non è mai giusta o sbagliata, esiste. Allora dobbiamo un po' farci conti, imparare a conoscerle, anche a provare a gestirle, ed è quello che cercheremo di fare oggi insieme a voi, naturalmente. 800 24 00 24, immagino che ciascuno di noi ha da raccontare quando gli è scappata la pazienza, si è arrabbiato. Messaggi al 349 238 6666. In linea con noi abbiamo il professor Bressa, docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Buongiorno, bentornato. Buongiorno e grazie dell'invito. E qua in studio con me c'è Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ci aiuterà soprattutto per la rabbia dei bambini e degli adolescenti. Allora, chi non la conosce, cari miei, scagli la prima pietra, ma io credo, per capire qualcosa di più della nostra rabbia, che domande possiamo farci? Allora, io chiederei sia al professor Bressa che ad Alberto di provare a darci qualche stimolo, qualche domanda che ciascuno di noi può farsi per venire un po' a capo del suo problema o non problema. Alberto, vuoi iniziare tu che sei qua vicino? Ma io scenderei subito nel concreto, inviterei i nostri ascoltatori a ripensare all'ultimo episodio di proprio rabbia selvaggia da cui sono stati travolti. Dovrebbero proprio pensare al contesto, dove si trovavano, cosa c'era intorno a loro, con chi si stavano arrabbiando, dove l'hanno sentita nascere la rabbia, partiva dalla testa oppure partiva dalla pancia, e poi dove l'hanno sentita esplodere. Se è esplosa, e con questa tua... Se è esplosa, professor Bressa, le passo la palla, vuole aggiungere? Ma no, direi che questa traccia è sicuramente utile. Forse aggiungerei che quando appunto rielaboriamo l'ultima occasione in cui abbiamo perso veramente il ben dell'intelletto, se c'era una ragione oppure no, vale dire se ricordiamo anche la giustificazione che ci siamo dati al momento in cui, sbollita la rabbia, abbiamo tentato di riprendere il controllo. Posso aggiungerne una io, ma cassatemela. Ma sì, vediamo. Ad esempio, come vi sentite dopo un attacco di rabbia? perché non lo so, io di solito mi pento e non lo rifarei più, ma comunque penso che ognuno di noi può raccontare la sua all'800 24 00 24, perché ciascuno di noi ha un modo forse di gestire in modo differente la rabbia. C'è chi la trattiene, chi esplode, chi fa entrambe le cose, ma io vorrei capire quali sono gli effetti di un attacco di rabbia sulla nostra salute. E allora ho chiamato al telefono il professor Fabio Magrini, a cui ho chiesto una mano, direttore della medicina cardiovascolare dell'Università di Milano, ospedale policlinico. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno. Professore, noi quando ci arrabbiamo sentiamo che un tumulto dentro, insomma qualcosa cambia, tanto che ci sono molti modi di dire comunemente usati che fanno proprio riferimento a queste modificazioni che avvertiamo quando ci arrabbiamo. Ad esempio, sono rosso di rabbia, mi mangio il fegato, mi scoppiano le vene, non ci ho più visto. È tutto vero. Quando ci arrabbiamo acutamente c'è un grosso lavoro del nostro cuore e del nostro apparato cardiovascolare. Il numero dei battiti aumenta, la pressione aumenta, le coronarie vengono stressate perché devono rifornire sangue ossigenato al cuore, che lavora molto di più. Quindi è una situazione stressante per definizione, e la sostanza che fa tutte queste cose, semplificando un pochino, è l'adrenalina. Però c'è anche un effetto cardiovascolare più globale che riguarda la pelle, cioè noi la chiamiamo cute, ma insomma la quantità di sangue che arriva alla cute. E lì ci sono due quadri. Uno viene descritto un pochino come diceva, vi va il sangue alla testa, cioè uno diventa tutto rosso. Sì. E l'altro quadro invece è livido di furore, diventa tutto bianco. Sì. Allora se noi facessimo questa domanda a Darwin, lui direbbe, ma è evidente che quando uno è arrabbiato deve farlo vedere, e la cute è il distretto che è più visibile. E probabilmente c'è, in termini proprio evoluzionistici, un po' semplificati, l'idea che vince chi spaventa di più, o con il rosso o con il bianco, l'interlocutore, perché è sicuramente una fase di, come dire, competizione che fa lavorare parecchio l'apparato cardiovascolare. Allora, la nostra educazione, che ha interferito con l'evoluzione, ci ha abituato a controllare queste cose, però se lei mi chiede è meglio sprigionare questa adrenalina o controllarla, non è una domanda facile. Direi che io proprio questa volevo farle, professore. Io lo so che lei ci tiene alla buona educazione, e probabilmente buona educazione è controllare la cosa, però dal punto di vista della funzione circolatoria è un po' improprio controllare un segnale che dovrebbe spaventare l'altro. Quindi questo richiede un lavoro in più. E se posso aggiungere un'ultima cosa, è molto diverso avere un attacco di rabbia o rossa o bianca per chi sa di avere il cuore in disordine, o perché la centralina elettrica non funziona bene, o perché le coronarie non funzionano bene, rispetto a chi non ha il cuore in disordine. E rispetto anche a chi, avendo il cuore in disordine, prende vari farmaci. Quindi la raccomandazione che i cardiologi fanno è: cercate di non far arrabbiare il signor X perché ha mal di cuore, e al signor X si dice, guardi, lei non si arrabbi. Non si arrabbi. A questo punto però i consigli dei medici sono facili da dare, ma è difficilissimo seguire, come faccio a evitare di arrabbiarmi, non è così facile. Ci sono delle medicine, in particolare una famiglia di medicine che si usano per il cuore, che hanno beta bloccanti, che attenuano molto gli effetti cardiovascolari, intesi come consumo di ossigeno, stabilità elettrica, quindi aritmie, degli attacchi di rabbia, siano quelli rossi, sangue alla testa, che quelli bianchi, livore da furore, insomma. Direi che può capitare che durante uno di questi attacchi a caso ci siano complicazioni cardiovascolari. Sicuramente potremmo dire che non è buono reprimersi, sì, e si trasforma l'attacco acuto in una cronica arrabbiatura. L'arrabbiatura cronica, nel senso che uno è arrabbiato ed è furibondo sia di giorno che di notte, non fa bene al cuore. In particolare può ostacolare il sonno, che è una delle cose che fa riposare anche il cuore. Quindi tendenzialmente io direi liberate l'adrenalina, sì, con un certo dose di buona educazione, e se siete cardiopatici parlate nel vostro cardiologo per usare dei farmaci che attenuano gli effetti dell'adrenalina, che sono i beta bloccanti. Quindi, professor Magrini, se proprio dobbiamo arrabbiarci, sbottiamo e poi risolviamo la questione rapidamente. Meglio un attacco acuto breve piuttosto che covare la rabbia. Sì. Dal punto di vista cardiovascolare sì, c'è evidenza che credo il cronico anche fa male più dell'acuto. Credo anche per chi ci vive accanto, perché vivere accanto con uno che ogni tanto sbotta, uno lo lascia lì e poi lo ripiglia. Vivere accanto ad uno che sempre, o una, che è sempre arrabbiato, lì non so, magari ci saranno delle ricerche che andranno a misurare gli effetti sulla nostra salute. Professor Magrini, io la ringrazio. Prego. Buone arrabbiature, brevi naturalmente. Buona giornata anche a voi. Allora, noi rilanciamo uno stimolo per i nostri ascoltatori. L'ultima volta che vi siete arrabbiati, come vi arrabbiate, in quale contesto, ma daremo voce anche a chi vive accanto a persone che si arrabbiano frequentemente. Siete d'accordo, professor Bressa? Assolutamente, certo. Allora vi aspettiamo, Alberto è qua con me, 824 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Parliamo di denti, nascono, crescono, cadono, ma a volte si rompono. Può capitare ai bambini per una caduta, può capitare anche ai grandi, un incidente, una botta violenta. Non bisogna perdere la testa. Ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Delefantoni, che è medico chirurgo, specialista in odontoiatria e ortodonzia infantile, presso l'azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, allora partiamo dai denti dei piccoli, quindi sono dentini da latte. Il bambino magari cade, si dimentica, non è ancora allenato a mettere subito le mani e il dentino se ne va, o si scheggia, si rompe, addirittura a volte proprio il dentino non si trova, cade completamente. La prima regola è stare calmi, tranquillizzare il bambino, cercare il dente se questo dente è stato perso, vedere viceversa se si è fratturato, se ci sono altre problematiche, ferite al labbro, e nel caso non si trovi, e comunque è sempre buona regola, recarsi in un pronto soccorso odontoiatrico o da un dentista capace di affrontare l'emergenza, perché con una piccola e facile, non dannosa indagine radiografica si possa vedere sia il dente, il danno al dentino, sì, l'eventuale danno al dente che crescerà dopo all'interno, o dove si è eventualmente collocato questo dente che non è stato ritrovato e che talvolta potrebbe addirittura essere andato nel labbro. Essersi conficcato nel labbro, però ce ne accorgiamo, perché immagino che il labbro debba sanguinare molto, no? Con un taglio, con un dente dentro, no? Non è detto, non è detto. Quello che voglio appunto sottolineare con l'importanza di recarsi presso un centro odontoiatrico o un dentista è proprio per la diagnosi, sapere, certo, che cosa è successo dopo il trauma. Andiamo ai dentini, no, ai denti a questo punto definitivi. Anche loro si possono scheggiare, rompere. In questo caso, dottoressa Fantoni, che cosa si fa? Molto spesso le persone si preoccupano anche quando solo prendono una forte botta sui denti, perché si dice il dente poi muore, diventa nero. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza? Esatto, quello che lei sta dicendo, perché la frattura è qualcosa che spaventa per via della conseguenza estetica, anche perché la gran parte delle fratture dei denti per trauma riguardano i denti anteriori, quindi quelli che compaiono quando si sorride, però non è detto che un colpo che si trasmette poi comunque al dente, quindi al suo nervo, non causi conseguenze di minore importanza. Quindi la morte del dente per compromissione della parte interna, cioè del nervo, con conseguente necessità poi di curare questa problematica, perché il dente non annerisca e non crei infezione. Perché si può, se uno interviene rapidamente, si capisce che la botta ha fatto morire il dente, si può evitare che il dente diventi nero? Questo è un po' un dubbio che viene spesso nei casi in cui appunto si prendono questi incidenti. Certo, più che evitare la conseguenza, anche in questo caso, tenere sotto controllo con visite periodiche, si chiama follow up, vuol dire seguire dopo un mese, poi dopo sei mesi, significa intervenire tempestivamente, allora quando una conseguenza, ahimè, infausta si presenti, quindi non lasciare degenerare le conseguenze. Questo vale per tutta la traumatologia. Certo. Noi dentisti impariamo dagli ortopedici, diciamo che oggi i traumi causa gli sport, la motorizzazione, anche una certa aggressività e violenza sempre più frequente. Proprio oggi che parliamo di rabbia, dottoressa Fantoni, senta, noi abbiamo detto il dente non si rompe ma prende una botta violenta, il dente invece si rompe, si spezza, in questo caso parliamo sempre di un dente definitivo, che cosa si deve fare? Conservare quello che è stato perso, se lo si trova, in acqua o latte, contattare il dentista affinché molto spesso sia possibile reincollare il frammento, soprattutto quando il dente non è stato compromesso nella sua parte interna, cioè ancora vivo, con eccellenti risultati estetici. Quindi e si incolla, ecco, dottoressa Fantoni, si incolla, va bene. Si può incollare. Allora, dottoressa Fantoni, ci auguriamo di cadere sempre bene, di non doverci rimettere i denti, ma nel caso sappiamo come comportarci. Grazie, dottoressa Fantoni. Grazie a voi per l'opportunità. Pronto soccorso. Signore e signori, il capitano comunica che abbiamo raggiunto la nostra quota di crociera. Ci auguriamo che il film sia di vostro gradimento. Mi scusi, potrei avere un paio di cuffie? Sono subito da lei, signore. Poi lui. Scusi, chiedo scusa, mi potrebbe dare un paio di cuffie? Non alzi la voce con me, signore. Io non sto alzando la voce. Ok, stia calmo. Sono calmissimo, vorrei soltanto le cuffie. Ci sono problemi, signore? No, nessun problema, è che vorrei... Signore, cerchi di calmarsi. Sono calmissimo, che cosa vi rode a voi altri? Vuole ripetere? No, voglio dire, insomma, a voi altri, che cosa vi rode? Senta, si calmi. Sono calmo! Questa corte le ordina di sottoporsi a una terapia contro la perdita di controllo. Perdita di controllo? Posso avvicinarmi, vostro onore? Lei può aiutarlo? Credo di sì, vostro onore. Era tratto dal film Terapia d'urto, insomma, basta poco, Alberto, a volte. Non ci si capisce una parola in più, il tono e ci si arrabbia. Si inizia ad alzare la voce ed è fatta. Professor Bressa, ma perché ci arrabbiamo? È una difesa, una reazione, magari un ipotetico torto, un modo per difendere anche il nostro spazio? Ci arrabbiamo quando ci sentiamo incompresi? Ci sono fiumi di ricerche che hanno cercato di spiegare e alla fine differenziare i vari tipi di rabbia. Professor Bressa, sì. Credo fondamentale sia quello appunto tra rabbia e aggressività. Sì. La rabbia in inglese ha un termine molto preciso che è rage, che proprio è anche più cattivo, ruggisce. L'aggressività è una componente fondamentale che viene, come diceva prima il cardiologo, attraverso l'evoluzione da una difesa, da situazioni che possono interferire con il nostro equilibrio, con il nostro benessere, e quindi è una modalità con la quale si comunica al prossimo la difesa del nostro territorio. Secondo me la rabbia ha dietro, viceversa, un motore stabilmente e cronicamente pieno di cose non belle dal punto di vista psicologico, vorrei dire rancore, risentimento, incapacità di esprimere nel momento giusto il proprio disagio, tendenza a essere ipercritici, voglia di accumulare crediti per poi scaricarli magari in altre situazioni, difficoltà di esprimere in tempo reale magari la percezione di un sopruso o altro. E questo motore è sempre a bassissimo numero di giri, ma sempre presente. In circostanze nelle quali l'individuo rabbioso trova lo stimolo, che magari è banale e che nulla ha a che vedere, o che viene soltanto utilizzato proprio strumentalmente per far partire il motore, in questo momento avviene lo scatto di rabbia, certo, che provoca ovviamente delle reazioni che sono del tutto sproporzionate e di cui spesso chi mi assiste ne è spaventato, ma non, come si diceva poc'anzi, perché effettivamente c'è una minaccia, ma perché è sconvolto da una reazione imprevedibile, magari collocata in una persona che abitualmente, proprio per questo motore, questa pentola di fagioli che bolle costantemente, appare mite, appare capace di controllo, appare addirittura quasi distaccato dalla realtà. Quindi è la sorpresa, ma che alle spalle prevede, credo sempre, quel tipo di assetto di stabilizzazione psicologica. Allora Alberto, abbiamo chiesto ai nostri amici da casa di raccontarci anche che cosa succede durante ma anche dopo. Voglio leggerti questo messaggio. Colpita e ferita con parole molto pesanti da mio fratello, non potendo reagire in quel contesto, sono scoppiata in un pianto dirotto, liberatorio e irrefrenabile, ci scrive Elena da Roma. Si può piangere anche per liberare la rabbia o per rabbia, Alberto? Ma sì, direi che il pianto poi è una delle soluzioni possibili della rabbia. Attenzione che quando si piange in realtà si rinuncia a fare il controattacco e quello che succede è che si finisce in balia della propria impotenza, percependosi impotenti invece di contrattaccare. È quello che succede anche nel mondo degli animali. Effettivamente la rabbia serve a prepararsi all'attacco e nel momento in cui io temo troppo l'attacco dell'altro devo dare un segnale di resa totale. Il pianto fa vedere questo all'altro: mi hai veramente in qualche modo fatto fuori, adesso devi proteggermi perché il mio dolore è troppo, il mio senso di impotenza è esagerato. Il pianto però scarica anche, quindi ti puoi sentire molto liberato. Liberata dalla tensione che ha scatenato l'attacco. Ci sono persone che sono assolutamente miti e poi si scatenano in alcune situazioni. Le classiche liti di condominio, ma ancora più frequente è l'arrabbiatura quando siamo in macchina. E la stessa cosa capita a Norberto da Bologna, che ci scrive: sono un tipo educato, tranquillo, non perdo mai la pazienza sul lavoro e in famiglia, medio sempre in ogni situazione, poi all'improvviso, magari per strada, per una sciocchezza, non ci vedo più e arrivo alle mani. Mi sembra impossibile, come mai? Anche un automobilista è sempre arrabbiato, lo sentiamo. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Ce l'ho a morte con gli automobilisti che vanno in giro come se fossero gli unici al mondo e se ne fregano del prossimo, come quello che incroci di notte in autostrada e tiene i fari tirati su, ma non sono fari abbaglianti normali, no, sono fari da nave che illuminano 6 corsie fino al successivo casello. Bah! Eccoci, siamo tornati, spero che non siate arrabbiati, ma comunque oggi abbiamo la possibilità di cercare di capire qualcosa di più della nostra rabbia, di quella che esplode all'improvviso, di quella che coviamo, per imparare un po' a gestirla meglio e soprattutto cerchiamo di capire come viviamo quando ci lasciamo prendere dalla rabbia. 800 24 00 24. Ma prima io vorrei aprire una finestra sull'agopuntura. È stata fatta una revisione degli studi effettuati per misurare l'efficacia degli aghi per la cura del mal di testa. Questi risultati sono stati pubblicati su Cochrane Library, una sorta di database degli studi, delle maggiori evidenze a disposizione su farmaci, interventi e trattamenti. Bene, secondo questa revisione l'agopuntura avrebbe un effetto di carattere psicologico, una sorta di effetto placebo. Ne parliamo col dottor Lorenzo Moia, medico ricercatore e vice direttore del centro Cochrane italiano. Buongiorno dottore, benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti gli audioascoltatori. Allora, arriviamo rapidamente a questa revisione. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno praticamente messo a confronto tutti gli studi positivi sull'efficacia degli aghi sul mal di testa e sono arrivati a una sorta di verdetto, ecco, provvisorio. Esatto, allora sono arrivati a una conclusione e i dati all'interno di questa revisione di tanti studi, che considera quindi 6.700 pazienti, quindi un numero ragguardevole, i dati sottolineano che l'agopuntura è efficace. quindi sia nel caso dell'emicrania sia nel caso della cefalea muscolotensiva, che sono le due grandi gruppi di mal di testa, la l'agopuntura è efficace. Per quanto è efficace, sembra che questa efficacia sia molto legata ai primi mesi di trattamento, quindi fino al quarto, sesto mese. L'altra domanda che uno si può fare è più efficace o meno efficace dei trattamenti farmacologici, che sono l'altra grande opzione, e sappiamo che l'agopuntura è parimenti efficace ai trattamenti farmacologici, come per esempio la flunarizina, ma ha meno effetti collaterali. Quindi potremmo concludere che in definitiva da questa revisione emerge che l'agopuntura è un'opzione terapeutica valida per la cura del mal di testa, ma c'è un qualche cosa che ha attratto l'attenzione poi dei giornalisti, che è il fatto che sembra che l'agopuntura, anche quando gli aghi vengono posizionati in maniera casuale, dia comunque un beneficio. E questo da alcuni viene letto come un effetto placebo. Esattamente, loro la spiegazione che danno è che è un effetto placebo. In realtà questa è una teoria, i dati ci dicono che l'agopuntura è efficace. Poi che cosa ci sia dietro all'efficacia dell'agopuntura è una speculazione. Quindi quando si dice che c'è un effetto placebo, questo può essere dovuto alla, come dire, all'approccio psicologico del paziente, che pensa che va a fare qualcosa di estremamente utile, quindi in qualche modo si autoconvince, ma può essere anche dietro a questo effetto placebo la produzione di endorfine, la produzione quindi di molecole che vanno a diminuire il dolore e a aumentare il benessere della persona. Però direi che la parte importante della revisione non è tanto quella sul placebo, ma è quella che ci permette di capire se per i pazienti l'agopuntura è una valida opzione. Dottor Moia, ci torneremo, intanto la ringrazio, perché leggerla con gli addetti ai lavori ha tutta un'altra, si danno tutte altre letture. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Arrivederla. Abbiamo in linea con noi Matteo da Como. Non so se è un tipo pacifico, uno che si arrabbia spesso qualche volta. Matteo. Buongiorno, io inizio a prenderla un po' con le pinze perché non si sa mai. Buongiorno, benvenuto, grazie. Mi dica. Senta, praticamente io lavoro con mio padre in azienda, un'azienda familiare, e mio padre ha molto spesso, diciamo, degli sfoghi di rabbia, che di fatto lo ritiene anche funzionali, diciamo, alla sua attività. Sì. Questi sfoghi io non riesco a non giudicarli, e probabilmente anche perché li ho vissuti da piccolo in un determinato modo, li vedevo come una forma di fragilità di mio padre o una serie di cose, no? E di fatto quando si ripresentano sul lavoro io li giudico con quegli occhi, diciamo. Questo fa sì che io mi senta colpevole nel momento in cui devo avere un tipo di atteggiamento, diciamo, assertivo, ad esempio nei confronti dei dipendenti, e di fatto mi pone in una posizione piuttosto difficile. Perché è necessario, capisci? Però devo dire, Matteo, che lei è stato così chiaro e almeno ha fornito tantissimi spunti sia ad Alberto che al professor Bressa, a cui chiedo di dare una risposta a Matteo, di essere un po' brevi, proprio di mirare sui punti essenziali per dare anche una mano. Cioè, Matteo fa già una lettura. Alberto. Ormai tu sei più brava di noi, perché il valore di Matteo è proprio questo: ci ha raccontato in modo chiarissimo che lui sa leggere nella sua mente, perché capisce cosa gli scatena la rabbia del papà, nella mente del padre lui riesce a capire perché è travolto dagli attacchi di rabbia ed è molto preoccupato da quello che vede nella mente dei colleghi di lavoro. Questa è un'importantissima funzione che gli psicologi chiamano metacognitiva. Avendo tutte queste competenze, Matteo può fare un salto in più, cioè può andare dal suo papà, dirgli che cosa vede nella mente del suo papà quando si arrabbia e fargli vedere però quello che c'è nella mente dei colleghi, così si deve togliere da questa posizione quasi diplomatica in cui lui deve fungere da intermediario. Lui di fronte ai colleghi può spiegare o può giustificare solo la rabbia che manifesta lui come Matteo, non quella del suo papà. Quella è responsabilità del padre. Però Matteo è molto avanti. 800 24 00 24, se invece della vostra rabbia avete ancora capito poco. E in linea con noi invece abbiamo una persona, un personaggio televisivo molto famoso, che ogni domenica scende nell'arena, un luogo in cui le persone si incontrano e si scontrano a suon di parole, che secondo me potrebbe scrivere un trattatello sulla rabbia, sui modi in cui si nasce, come si manifesta e sulla sua gestione. Saluto Massimo Giletti. Massimo, grazie. Ciao, per essere con noi. Ciao Massimo. Senti, allora, tu che sei sempre lì, che con le persone, no? Ci sono Voglio dire che a porta ho visto due onorevoli prendersi a calcio e insulti. Quindi la rabbia viaggia in questo sistema anche televisivo, raccoglie quella che è la tensione della società, secondo me. Senti Massimo, ma tu hai capito che guardando le persone che si incontrano e si scontrano anche nell'arena, hai capito qualche cosa di più della rabbia, almeno quella altrui? Poi sulla propria, su quella altrui uno riesce a parlare, sulla propria ma c'è una diversificazione chiara, cioè c'è chi si vuole imporre televisivamente alzando la voce, che segue la scuola Sgarbi, tanto per dire, no? Sono un problema diverso, Sgarbi ha contenuti e intelligenze e quindi a volte si può permettere di alzare i toni, sì. Mentre ormai i beceri purtroppo vedo che sono figli di questo periodo della società, altri hanno un impulso in uno istante ma si pentono subito dopo. La mancanza di equilibrio è il sistema che ha una mancanza di equilibrio totale, e la TV lo riceve, devi gestirla, tu sei lì come me, come conduttore devi avere il dovere anche di gestirla. Massimo, tu sai gestire la tua, che cosa ti fa arrabbiare? Ti arrabbi di più in macchina, in famiglia, sul lavoro? Non ti arrabbi? Mi arrabbio, devo dire la verità che sono uno di quelli che può anche mandare a quel paese. Sì. Perché in macchina, ecco, fare un giro in macchina in una città come Roma, io a parte che vivo in motorino, perché se usassi la macchina mi avrebbero già arrestato, perché vedi di tutto, cioè vedi l'inciviltà totale, quindi una volta va bene, due volte la terza ti manda a quel paese. Mi sembra che il tuo tallone d'Achille sia il traffico romano, professor Bressa. Ma credo che non sia solo il suo tallone di Achille, drammaticamente, però è vero che, di nuovo torniamo sul punto, cioè le situazioni particolarmente impegnative dal punto di vista proprio dello stress, della fatica, sono poi quelle che vanno ad attivare quel motore di cui parlavamo prima. Io credo che in linea di massima le persone che sono comunque abituate a gestire, orrendo termine, ma insomma le proprie emozioni, ad avere un buon rapporto con se stessi, poi trovano delle soluzioni, perché le soluzioni rabbiose normalmente attivano comunque in qualcun altro una controreazione, quindi la percezione della persona intelligente e anche padrona di sé e dell'assoluta inutilità della rabbia, della rabbiosità gratuita e soprattutto non finalizzata per difendere qualcosa di nostro. Noi non possiamo picchiare tutti coloro che guidano male. Massimo Giletti in motorino nel traffico di Roma con noi per parlare di rabbia, ci sei ancora? Sì, sono fantastico. Traffico regolare lungo il... Senti Massimo, c'è Alberto qui che durante le strade mi diceva: ma io sono curioso, Alberto. Allora chiediamo a Massimo se dopo una puntata particolarmente infuocata dell'arena, dove tutti litigavano e lui ha dovuto tenere sotto controllo la rabbia degli altri, fuori onda lui si arrabbia con qualcuno oppure lascia decantare e riesce a rilassarsi? No, io lascio decantare bene, devo dire la verità che mentre io sono cresciuto con due fratelli che erano abbastanza rabbiosi da piccoli, mentre io ero molto sereno, io trovo che bisogna decantare, bisogna ragionare, certo ci sono dei momenti difficili, però è più complicato gestire la tensione in diretta che dopo è finita, al massimo vai a chiedere le spiegazioni, ecco. Allora, quindi questo possiamo utilizzarlo un po' come tuo consiglio, tuo messaggio a chi ci sta ascoltando, Massimo? Ma il messaggio è di riacquistare un po'... a me spiace molto, perché la rabbia la vedi ovunque, la vedi allo stadio, la vedi per strada, come dicevamo prima, la vedi anche in casa, no? Come si risponde alla moglie, alla fidanzata... Lanciamo una campagna, invece che far vedere i denti facciamo un sorriso, eh? Sì, potrebbe essere un messaggio. Dai, proviamo, portalo anche tu nell'arena. Massimo, un bacio. Va bene, ciao a tutti. Grazie per essere stato con noi. Andiamo a Varese, ci aspetta Anna, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione e le tantissime informazioni utili. Io sono dalla sponda opposta, cioè mi trovo ad affrontare il mio compagno pignolo, preciso, che ha a che fare con, per la sua attività, con un sacco di persone, di clienti dai caratteri più svariati, e io sono il cuscino che guai a commettere qualche errore, perché devo ammortizzare quella che è la rabbia che lui accumula per tutte queste persone diverse. Senta Anna, ma da quanto tempo è che è innamorata di questo compagno? Lei? Innamorata, bella questa, perché comunque sì, sono 15 anni, e nonostante tutto sono ancora sul cuscino dove sfoga questa. 15 anni di cuscino. Allora, grazie Anna. Io ho un consiglio veloce da Alberto e uno dal professor Bressa, perché poi abbiamo Roberto e Paolo da Milano, perché con loro facciamo una specie di mini guida per gestire la rabbia. Alberto, ad Anna cosa diresti? Ma che la sua certamente non è una vita facile, è bene che qualche volta si arrabbia anche lei. Io credo che il successo però di 15 anni insieme a una persona così è probabilmente legato al fatto che quest'uomo, oltre a rompere a volte la relazione con gli scatti di rabbia, probabilmente è molto bravo anche a ricucire, a riparare. Deve essere straordinario nel momento in cui chiede di fare la pace. Professor Bressa, vede che Alberto tiene sempre la parte a voi uomini. Sì, posso essere un secondo cinico? Io credo che il giorno in cui aboliranno i sadici non ci saranno più masochisti in giro e viceversa. Direi ad Anna di anche di fare una piccola riflessione di quanto ci mette del suo ad acconsentire, ad avere acconsentito che si creasse questa situazione, che se la porta a chiamare alle 11 di mattina di un giorno di gennaio per radio per raccontarla. Vuol dire che è una cosa, io sono molto grata ad Anna, perché è una situazione molto diffusa, il vivere vicino è molto diffuso tra noi donne, che siamo state un po' educate dalle mamme ancora prima a mandare giù, perché in una certa cultura era giusto che l'uomo arrivasse a casa e battesse il pugno sul tavolo. Quindi io, piccolissimo, sì. Però è vero, con questo atto di coraggio, ma allora portiamoli anche talvolta da uno psicologo, da una psichiatra, questi mariti, perché non sono soltanto diritti di avere i caratteri di questo genere e le donne destinate a subirle, possono avere anche dei problemi su cui magari qualcuno tecnicamente può dare loro una mano. Roberto, quindi nei casi non medicalizziamo tutti, ma nei casi in cui il problema si fa veramente, diventa quasi patologico, è opportuno farsi aiutare. Ma io credo che il problema, il compagno di Anna, sia un tipo, come suggeriva il professor Magrini, che sbotta e poi, come dice Alberto, recupera. Roberto da Torino, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Roberto, lei è... com'è? Io premetto, no, io sono una persona, diciamo, mite, no? Però premetto che sono anche un consulente finanziario, perciò motivi per essere arrabbiato da questa parte ne ho. Però il discorso è che sono anche un giovane papà da un anno. Complimenti. Grazie. E questo però mi ha stravolto, diciamo, la vita, perché è una discussione continua. Perché comunque mia moglie, nonostante che sia ormai diventato uno di quei papà che si è prestato in tutto per tutto ad aiutare la moglie, però vengo tenuto, tra virgolette, sempre fuori dai problemi, il primo fesso che passa ha ragione. Senta Roberto, allora io qua ho Alberto Pellai, che è un esperto, e poi ha 4 figli, quindi lui si è forse trovato in una situazione simile alla sua già molte più volte di lei. Roberto, allora te lo affido, Alberto. Allora, papà. Lo dovremmo invitare nella nostra stanza di questa casa, non è un albergo, è un problema molto molto tipico di quando si diventa padri, e quindi la coppia si trasforma in un triangolo, e quindi bisogna imparare proprio a ricollocarsi rispetto alle relazioni uomo-donna, uomo-bambino, mamma-bambino. È una fatica che tutti gli uomini devono fare, è una fatica che si fa dentro alle coppie. Se la situazione è così cronica dopo un anno, significa che non avete trovato il modo per comunicare, per ricollocarvi nelle giuste posizioni, per rimanere proprio una coppia sana e una famiglia, un triangolo che ce la fa. Direi che forse potete provare a chiedere aiuto. Fa molto bene, Roberto, a chiamare a dire in questo momento sto davvero soffrendo, perché è da lì, da questa consapevolezza, che si deve ripartire per trasformare di nuovo le vostre relazioni reciproche in qualcosa di più circolare, che fa bene a tutti. E poi è importante chiedere aiuto, parlarne. Paolo da Milano, buongiorno, io ho un minuto, quindi 10 secondi per la sua domanda, 20 secondi per la risposta del professor Bressa. Buongiorno. Dire, io ho un bambino adottato da 8 mesi. Sì. Ed è un periodo che lui è un po' collerico, sfoga molto la rabbia. Quanti anni ha il suo bambino? La mamma. 6 anni e mezzo. 6 anni e mezzo. Professor Bressa, possiamo dare un consiglio? Capisco che il tempo a nostra disposizione sta sfumando, ma... 20 secondi per dire, capire se è un problema del bambino o se è un problema dell'ambiente. Quindi la prima soluzione può nascere da un ambiente che magari favorisca un migliore controllo degli atteggiamenti collerici del bambino. Quindi è importante, Alberto, ci sta anche il fatto che questo bambino si sta ambientando, è poco tempo che... Ma è proprio anche dimostrato che soprattutto quando i bambini arrivano in un nuovo sistema di cure, che si prenderà cura di loro, fanno quella che si chiama la messa in prova dei nuovi genitori, cioè dopo un periodo di studio provano a provocarli il più possibile per vedere se quello è un ambiente che riuscirà a contenerli, qualsiasi sia il modo in cui loro si presentano. È una specie di collaudo. Allora oggi chiudiamo, sono quasi giusta direi, per fortuna, vi saluto, vi posso salutare con calma, ringraziare il professor Bressa che è intervenuto. Grazie professore, noi ci sentiamo presto. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, buona giornata con un sorriso. Alberto me lo tengo qui, adesso noi tanto poi sabato ci rivediamo, sempre sorridente, Alberto è serafico, io però riusciamo a bisticciare ogni tanto anche io e te. Comunque noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11, vi aspetto e vi ringrazio per essere stati con noi. Buona giornata.